Ad alta voce. Le Metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro quarto, versi 271-562. Le tre figlie di Minia, per sottrarsi alle orge rituali di Bacco, tessono e si raccontano favole mitiche. La seconda ha esaurito il prodigioso racconto di Leucotoe, principessa persiana, amata da Apollo. Il mirabile evento ha catturato l'ascolto. C'è chi nega che sia possibile, chi sostiene che dei di razza possano tutto, non Bacco. Esaurito il dibattito, è il turno di Alcitoe, la quale, lasciando scorrere nell'ordito la spola, dice così: «Tacerò degli amori fin troppo famosi di Dafni, il pastore del monte Ida, che folle di gelosia una ninfa trasformò in una pietra, tanto brucia il male d'amore. Ne dirò come un tempo, alterando le leggi della natura, l'ambiguo Sitone fosse ora maschio, ora femmina. E te, Celmi, adesso d'acciaio, fedelissimo un tempo di Giove bambino, e i cureti spigati da un acquazzone, e Croco e Smilace ometterò, cambiati in piccoli fiori. Ho in animo di catturarvi con una ghiotta primizia. Come mai la fonte Salmacide, col languore delle sue acque, abbia la brutta fama di spossare i corpi che bagna? Ascoltate, la causa si ignora, gli effetti tutti li sanno. Dunque la dea di Citera ha dato a Mercurio un bambino che le naiadi hanno cresciuto dentro le grotte dell'Ida. Dalla faccia riconoscevi subito tanto la mamma quanto il papà, composto dai loro due nomi il suo nome. Appena compiuti i tre lustri, il ragazzo abbandona i monti natali e, disertato l'Ida che lo ha nutrito, si diverte a girare paesi ignoti, a vedere ignoti fiumi. La curiosità si porta via la fatica, finché non arriva nelle città di Licia e più in là della Licia in Caria. Lì vede luccicare un laghetto limpido fino al fondale. Non c'è una canna palustre, non ci sono inutili alghe né giunchi puntuti in cima. Trasparente è lo specchio d'acqua. Giro giro, peraltro, lo orlano zolle sempre vive ed erbe verdissime sempre. Lì viveva una ninfa non versata però nella caccia o nel tiro con l'arco e nemmeno in gare di corsa, fra le naiadi l'unica, lei sconosciuta a Diana Veloce. Pare le sue sorelle le dicessero sempre: «Perché non ti prendi, Salmacide, un'asta e una bella faretra a colori e movimenti i tuoi ozi con le pratiche della caccia?» Ma lei non c'è verso si prenda un'asta o una bella faretra e movimenti i suoi ozi con le pratiche della caccia. Anzi, quando non sciacqua nel laghetto quel corpo stupendo, con un pettine in legno pregiato si ravvia i capelli o consulta lo specchio dell'acqua per capir cosa meglio le stia, oppure tutta avvolta in un velo trasparentissimo sta lì sdraiata su morbide foglie e su morbidi prati. A volte coglie fiori. Ne coglieva anche la volta che vide il nostro fanciullo e a vederlo decise di farselo. Non lo abborda però, per quanto smani a abbordarlo, senza prima comporsi, modellarsi il velo sul corpo, studiare la faccia giusta, sentirsi più bella possibile. A quel punto attacca: «Bel giovane, che ti meriti proprio d'esser preso per Dio, e se sei un Dio non puoi essere che Cupido, e se sei mortale beati i tuoi genitori e tuo fratello, e se una ne hai fortunata davvero tua sorella e la balia che ti ha dato le tette, ma molto, molto più beata di tutti, se una ne hai, la tua fidanzata, ove mai dovessi degnarti sposarla. Se c'è, ci consentiremo un piacere furtivo, se non c'è, ci sono io, forza, andiamo a tuffarci insieme sul letto. La naiade ha chiuso, si tinge di rosso il viso del giovane, non sa l'amore che sia, ma pure arrossire gli dona. Il suo colore è il colore di frutti investiti dal sole, o d'avorio ombrato di porpora, o del candore arrossato della luna quando rintronano inutili i bronzi a sventare l'eclissi. Alla ninfa che non la smette di chiedergli baci, almeno fraterni, e allunga le mani al collo d'avorio, o tu la finisci, fa lui, o scappo e ti pianto qui sola. Si spaventa Salmacide. No, no, dice, ti lascio il posto, straniero, è tuo. Si gira e fa la finta di togliersi di mezzo, ma sempre sbirciandosi dietro si infila nel fitto della macchia e si apposta lì in ginocchio. Lui allora, convinto che nessuno lo guardi, ciondola liberamente sull'erba del prato e intinge i piedi nel brivido delle ondicine, per cominciare la punta, poi tutti, fino al tallone. E di lì a poco, sedotto dalla fresca carezza dell'acqua, si sfila la veste leggera dal tenero corpo. Non crede ai suoi occhi Salmacide e crepita di bramosia per quel nudo bellissimo. Così le scintillano gli occhi, come il disco fulgente di Febo il sole, riflesso in uno specchio, scintilla nitidissimamente. Non vuole più perdere tempo, il piacere non vuol differirlo più. Se non lo abbraccia, impazzisce. E ormai chi la tiene, che è pazza? Lui tutto il corpo si applaude con mani svelte e leggere, ed ecco si tuffa nel lago e, alternando le braccia nel nuoto, traluce nell'acqua limpida, come se copri una statua d'avorio o candidi gigli con una lastra di vetro. «È fatta, è mio!» grida la naiade e, gettato lontano tutto quello che ha indosso, si lancia nell'acqua, si aggrappa a lui che rilutta, gli strappa combattutissimi baci, lo tocca sotto, carezza renitenti capezzoli, gli si avvinghia addosso ora per davanti, ora per dietro, finché, per quanto il ragazzo recalcitri e tenti sgusciarle, lo branca come il serpente rapito in cielo dall'aquila reale che, appeso per aria, le intrappola le ali aperte e la coda, o come l'edera che si abbarbica i grandi tronchi, o come il polpo quando sott'acqua sorprende un nemico e gli si avviticchia allungando da tutte le parti i tentacoli. Caparbio, il nipote di Atlante, ricusa alla ninfa l'ambito godimento assillante, lei se lo stringe con tutto il corpo, gli si incolla. Dimenati quanto ti pare, canaglia, tanto non mi scappi. Gli dèi non permettano mai, non permettano mai che lui si separi da me, che io mi separi da lui. Dice, e gli dèi consentono. Così i corpi dei due si congiungono e saldano, e dalle due figure ne viene una, come chi, fasciati stretti due rami, con l'andar del tempo li vede saldarsi e crescere insieme, così quei due corpi fusi in quell'abbraccio tenace non sono più due, ma sono una forma doppia, non sai se donna o uomo, né l'uno né l'altro, e tutti e due insieme. Constatando che il limpido specchio d'acqua in cui s'era immerso maschio lo ha svirilizzato, gli ha ammorbidito i muscoli, tende le braccia e con voce non più maschile del tutto, ermafrodito supplica: «Fategli un bel regalo a vostro figlio che porta il nome di entrambi, mamma e papà. Chiunque si tuffi nel laghetto, ne esca maschio a metà, gli si afflosciano i muscoli nel contatto con l'acqua. Le parole del figlio biforme turbano i suoi genitori, che accondiscendono e versano nel laghetto un'oscena pozione. Finito il racconto. Sprezzanti le figlie di Minia, però, non staccano dal lavoro pur di profanare la festa del Dio, quando ecco timpani che non si vedono rompere in suoni sordi e flauti a tubo ricurvo e bronzi laceranti e un odore di mirra e di zafferano. I telai, roba da non credere, presero a verdeggiare i vestiti appesi come edera a mettere foglie, in parte diventano viti e quelli che erano fili si mutano in tralci, sbucano pampini dagli orditi, la porpora eroga il suo fulgore a tingere grappoli d'uva. Il giorno già se ne andava e già s'era fatto il tempo che non puoi dire sia buio, ma non puoi dire sia luce, che la luce sconfina in una notte indecisa. E di colpo sembrò tremassero i muri, le lampade ad olio si accendessero tutte, la casa splendesse di rossi bagliori ed ululassero forme illusorie di bestie feroci. Sbandano le sorelle nelle stanze piene di fumo per sottrarsi al barbaglio dei fuochi, e mentre si cercano un nascondiglio, fra piccoli arti una membrana si stende e un velo sottile implica fragili braccia. Come abbiano perso l'aspetto di prima, il buio impedisce di capire. Non sono comunque piume a levarle da terra. Strane ali le reggon per aria, trasparenti, e se fanno tanto di parlare, emettono voci irrisorie, in tutto conformi a quei corpicini, e cacciano lievi squittii lamentosi. Case, non boschi, frequentano. Odiando la luce, non volano che di notte, e vespertiliones prendono il nome dal vespro. Da allora il nome di Baco è celebratissimo in tutta la Beozia, e una zia raccontava a tutti la grande potenza del nuovo dio, lei di tante sorelle, l'unica a non aver sofferto se non del dolore delle altre sorelle. La vede Giunone vantarsi dei figli e di suo marito Atamante, non solo, ma anche di quel figlioccio divino. È troppo per lei. Possibile, si dice, che un figlio di Troia contraffaccia e butti in mare marinai della Meonia, induca una madre a straziare le viscere di suo figlio e appioppi ali mai viste alle tre figlie di Minia. E Giunone non possa far altro che piangere invendicata. Cos'è? Dovrei far buon viso? Tutto qui il nostro potere imparerò da lui, dal nemico imparare si può. Dove arrivi il delirio ce lo ha insegnato fin troppo col massacro di Penteo. Mi chiedo perché non istigo Ino a prendere esempio da sua sorella e scatenarsi. C'è un sentiero in discesa aduggiato da funebri tassi, dove porta alla sede dei morti traverso un silenzio spettrale. Pigro lo Stige esala le sue nebbie. Per di là scendono le ombre recenti, fantasmi di chi nel sepolcro è composto. Squallore e freddo dilagano in quegli orridi spazi e i novizi della morte non sanno la strada per la città del tetro dite, né dove si trovi il suo spaventoso palazzo. Mille accessi all'enorme città e tutte le porte aperte. Come il mare accoglie i fiumi da tutta la terra, così quello spazio le anime tutte, e non c'è popolo al mondo cui vada stretta o afflusso di masse che crei problemi. Vagano esangui le ombre, senza carne e senza ossa. parte si accalca nel foro, parte a casa del re dell'abisso, parte svolge mansioni che riproducono quelle della vita trascorsa, parte infine sconta una pena. Sopporta di andare laggiù, lasciando la sede celeste, talmente smania d'odio e di rabbia, Giunone Saturnia. Fa tanto di entrare che, calpestata dal corpo sacro, geme la soglia, Cerbero spiana i suoi tre ceffi e caccia tre latrati in una volta. Lei convoca le tre figlie della notte, dee funeste e implacabili. Stan lì sedute e piantonan le porte d'acciaio sbarrate del carcere e pettinano i serpenti neri dei loro capelli. Come la riconoscono nell'ombra brumosa, le tre s'alzan di scatto. Il posto si chiama Campo degli Empi. Tizio si lascia strappare i visceri, copre sdraiato 9 iugeri, e tu non riesci a raggiungere tantalo l'acqua e non arrivi ai frutti che ti pendon sul capo. O spingi o recuperi, Sisifo, il masso che tornerà a rotolarti giù. Issione continua a ruotare fuggendosi ed inseguendosi, e le nipoti di Belo, che han perpetrato il massacro dei cugini, non fanno che attingere l'acqua che perderanno. Li sbircia tutti con occhio torvo la nostra Saturnia, e prima di tutti Issione. Poi, riportando lo sguardo su Sisifo, perché mai questo sconta pene in perpetuo e suo fratello Atamante, borioso com'è, se la spassa in un bel palazzo, anche se lui con sua moglie mi han sempre schifato, ed espone il perché del suo odio e della venuta, e che vuole? Vuol demolita la casa reale di Cadmo e che istighino le tre sorelle Atamante al delitto. Ordina e nell'ordinare implora, promette e così sobilla le dee dell'abisso. Non ha finito di dire che Tisifone, scapigliata com'è, scrolla i grigi capelli e, ravviando le serpi che le scendono sulla faccia, non hai bisogno, dice, di sprecare tante parole. Quel che volevi è già fatto. Questo squallido regno lascialo qui dov'è e ritorna nei cieli, che sono tanto più ariosi. Se ne va Giunone, e quando è lì lì per rientrare nei cieli, Iride la purifica irrorandola d'acqua lustrale. Senza por tempo in mezzo, Tisifone selvaggiamente brandisce una torcia zuppa di sangue, indossa un mantello rosso di sangue vivo, si attorciglia un serpente alla vita e parte. E partendo si porta presso il lutto e l'angoscia e il terrore e la pazzia con l'occhio sbarrato. Alla soglia si ferma. Dicono che la porta del figlio di Eolo sussultasse, che impallidisse l'acero dei battenti, che il sole sparisse. Il portento terrorizza Ino, la moglie di Atamante, e atterrisce anche lui. Fan tanto di uscire di casa. Piantata sull'uscio, sbarra il passo l'Erinni funesta e, aprendo le braccia avvolte in un intrico di vipere, scuote la chioma. Alla scossa i rettili crepitano. Chi le si versa sopra le spalle, chi sgrondandole in seno fischia e vomita marcio, facendo vibrare la lingua. A questo punto lei si spicca due serpi dal mezzo del cranio, con la mano pestifera li scaraventa e quelli prendono a perlustrare il petto a Ino e Atamante, spirando putrido fiato. Sul corpo non fanno ferita, la mente è la mente a patire lo spaventevole assalto. Ha portato con sé anche un infuso schifoso, bava di Cerbero, muco velenoso di Echidna, manie deliranti, le tenebre dell'oblio, la scelleratezza e lacrime e rabbia e la brama di uccidere, il tutto tritato insieme e, mescolato a sangue recente, bollito in catino di bronzo e girato col gambo della cicuta. Ai due che son lì atterriti versa in petto l'infuso della demenza e nel fondo dell'anima li sconvolge. Poi, roteando la torcia più svelta, sempre più svelta, col vorticare del fuoco, fomenta il fuoco. Eseguito brillantemente l'incarico, torna nel regno gremito di vuoto del grande dite e si slaccia il serpente cintura. D'improvviso, in mezzo al palazzo, il figlio di Eolo comincia a urlare da pazzo. «Ragazzi, tendiamo le reti nel bosco! Una leonessa ho appena visto, con due leoncini!» E come lei fosse una belva, bracca sua moglie, le strappa dal seno il piccolissimo Learco, che ride e tende le braccine, lo ruota per aria due tre volte, quasi che fosse una fionda, e fracassa la testa bambina contro la roccia, inesorabile. Allora la madre, stravolta, non so se più dal dolore o dal veleno, che ormai l'ha invasa, si mette a ululare, fugge demente i capelli al vento e, portandosi fra le braccia te, Melicerta bambino, strilla «Bacco e voè!» Al nome di Bacco Giunone ridacchia «Bel servizio ti ha reso il tuo caro figlioccio!» Pende sul mare una rupe, dai frangenti scavata alla base, protegge le ondicine, riparandole dagli acquazzoni. Sporgendosi, la sommità fronteggia il mare aperto. Lì su si arrampica Ino, la pazzia le raddoppia le forze e senza esitare, senza paura, si getta in mare col suo piccolo peso. All'urto il pelo dell'acqua biancheggia. Ma Venere, impietosita dall'immeritata sventura di sua nipote, così blandisce suo zio Nettuno. Dio delle acque, secondo in maestà solo a quello del cielo, ti chiedo molto, lo so, ma tu abbi pietà dei miei cari che sbatacchiati vedi nell'immenso Ionio ed aggregali al tuo corteggio. Un mio ruolo ce l'ho anch'io nel mare, se un tempo affiorai dal suo fondo divino spuma incarnata, tanto che in greco il nome Afrodite deriva da Afros, la spuma. Nettuno acconsente e ai due sventurati sottrae quanto hanno di mortale, li investe di tutta la dignità degli altari e ne modifica i nomi nel modificarne l'aspetto, chiamando Leucotoe la madre e Dio Palemone il figlio. Le amiche tebane di Ino, seguitala quanto possibile, ne videro le orme interrotte dall'urlo della scogliera. Preso atto della sua morte, piangon la casa di Cadmo, martellandosi il petto, strappandosi vesti e capelli e rinfacciando la poca giustizia e la troppa ferocia con la rivale a Giunone, la quale, non tollerando rimproveri, dice «Vuol dire che voi sarete il più bell'attestato della ferocia di Giunone». E così detto fatto, l'amica più fida nel dire «Io seguirò la regina in mare» e nello spiccare il salto non riesce più a spostarsi. Aderisce alla roccia e fa tutt'uno con quella. Un'altra, che tenta di battersi il petto come di rito, sente nel tentativo le braccia irrigidirsi. Una terza, che tendeva le braccia alle onde del mare, fatta sasso, è lì che tende per sempre le braccia alle onde. Di una quarta, che con le mani fra i capelli se li strappava, avresti visto le dita fra i capelli indurirsi di colpo. Sorprese in un gesto, in quello rimangono tutte bloccate. Altre diventano uccelli e oggi ancora le Ismenidi sfiorano in punta d'ala l'acqua in quel tratto di mare.